Sono le 22 e 2 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Matteo, buonasera Marco. Da Ciao. Firenze, da Firenze per Rock Wave stasera Matteo. Da Firenze. Matteo Malcuori, bella, è un po' lungo da Firenze, cosa dici? Ma io credevo di più, sinceramente due ore. Bene, cioè, abbiamo... due ore qualcosa. Due ore qualcosa. Buonasera da Rock Wave, buonasera anche a Michele Tosoni in regia, buonasera a Maurizio Calzavara. Abbiamo cominciato per l'ennesima volta il mercoledì e il mercoledì cominciamo in live. Bisogna fare dal vivo, suonare dal vivo. Matteo Malcuori è venuto da Firenze per presentare il suo disco, la sua discografia. Ma prima di presentare il suo disco, la sua discografia, parliamo di te. Il progetto Matteo Malcuori ha avuto un'esplosione nel 2009. Hai visto Tom Waits nell'ombra? Ho visto Tom Waits nell'ombra. Venivo da un anno, diciamo, sabbatico, dove avevo, diciamo, no, come dire... posato lo strumento, ma quasi dovevo decidere cosa farne. Marco ha fatto sì, è vero. Marco, sì, sì. Il compagno di viaggio da ormai da più di un decennio. Bene, quindi, ma il strumento era la chitarra, il tuo strumento? Sì, la chitarra e la voce è sempre stato. Questo, diciamo, è il duo fondante del progetto, perché siamo non andati a scuola insieme, ma quasi dall'adolescenza sempre. Quindi, hai sviluppato le tematiche musicali assieme a Marco, praticamente. Sì, ma sempre aiutato in questo. Perfetto. Allora, nel 2009 hai passato la canzone d'autore, hai visto Tom Waits musicalmente vicino, nell'ombra. E perché Tom Waits nell'ombra? Di Tom Waits ne abbiamo parlato tantissimo in altre trasmissioni, perché Tom Waits è un genio. Ma perché il Tom Waits del 2009, cioè la produzione dopo Tom Waits? A me piace praticamente Blue Valentine, cioè il primo Tom Waits. Perché quello là, Matteo? Io sono rimasto incuriosito dalla seconda parte. La seconda parte dall'anno 80, esatto. Dal Swordfish Trombones, dove rimaneva il blues, che sicuramente è stata parte dei miei ascolti durante la carriera musicale, ma c'era anche di più. C'era qualcosa che veniva dalla musica sperimentale, qualcosa degli strascichi anche, come dire, della musica degli anni 70. Quale musica degli anni 70, Matteo? vuoi sapere tutto io. Capitan Beefheart, Frank Zappa. Io volevo immaginare che citavi Capitan Beefheart, ma è logico, cioè... Perché sentito il disco di Matteo, cari i nostri ascoltatori, sentendolo, ci sono degli esperimenti dentro. Non c'è solamente Tom Waits o l'anone di Tom Waits che alleggia, c'è il blues sporco. E il blues sporco anche di Captain Beefheart, possiamo Però dire. C'è anche la voce dell'Howlin' Wolf degli anni 50. Certo, c'è certo. Questa cosa. C'è un po' di tutto. C'è un. Cioè, hai costruito un qualcosa che doveva prendere le cose più importanti di te musicalmente parlando. Le cose che ti. Che amavi, questo possiamo dire, questo Matteo. Sì, di sicuro, e filtrarlo attraverso la musica d'autore, in questo caso italiana, era certo, molto importante certo, per certo. me, perché in tutti gli ascolti che ho fatto nei miei 30 anni, gran parte si tratta di musica di oltreoceano o comunque musica in lingua inglese. Il fatto di filtrare tutto e la mia passione per la letteratura legata a... ai settori americani. Autori americani, esatto, sì. Mi ha stimolato nel buttare nero di mettere nero su bianco, però in quella che era la mia lingua che è la mia lingua di tutti i giorni. Ti ha buttato a costruire quest'opera che si chiama Il gioco analogo. Che è il tuo primo disco praticamente. Il disco di esordio. Un esordio, però dopo anni di apprendistato, possiamo è dire una cosa, ne abbiamo parlato per serate intere in questi 10 più anni. Era una cosa che volevo fare e piano piano, nemmeno eccessivamente piano, perché dal 2009 ci siamo impegnati logicamente cercando molto produttivo cioè in un annetto il disco è uscito cercando di rispettare le esigenze di tutti, perché comunque vivere di musica è difficile. Vogliamo sottolineare, è molto, molto difficile, diremmo quasi impossibile quei tempi che corrono. Quasi impossibile, dici, se uno soprattutto negli ultimi anni è diventato ancora più dura. È dura. E se uno vuole fare delle cose inedite, se uno lo vuole fare come intrattenimento già, però non era nostra intenzione. Però il problema delle cove ne parliamo dopo, nel proseguo della trasmissione. Cominciamo ad aprire la finestra. Tu hai scelto una traccia, la prima traccia del disco per iniziare. Che traccia era, ti ricordi, Michele? Numero 5, ecco. La sentiamo e poi ne parliamo, ok? Perfetto. Vai via, vai via di qui, mi fa male star soltanto a guardarti con lo sguardo che pian piano è ammaestrato anche a ridere senza aver capito. Diverso, un altro bicchiere di Bordeaux e mi volto. E per un attimo son distratto, il porto poco lontano resta assorto e tremo al pensiero di non esser pronto. Vai via di qui, mi fa male anche solo sfiorarti. Vai via di qui, non c'è più niente che io possa raccontarti. Il mare ha buci da fare asciugare al sole sui vestiti pieni di sale, le tue valigie sì, sono impolverate. Io le ho nascoste e poi mai più ritrovate. Vai via, vai via di qua, ma non la senti. Salvar. Ma non capisci, è stato il caso ad unirci. Dunque leggevi quei maledetti libri d'amore che lascia lacrime su una pellicola senza colore. Ma che bella che sei, non riesco a scaricarti. Tu che mi urli, siamo fatti per amarci. Vai via Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora Matteo, la traccia che abbiamo scelto, la traccia numero 5, che, come si intitola? Vai via. Ecco, adesso parliamo un momento di questa traccia, di questo pezzo. Mm-hmm. Abbiamo parlato di Captain Beefheart. Mm-hmm. C'era Captain Beefheart, però alla fine l'hai tramutato in altra cosa. È un seme di momenti sonori, di virtuti e corretti, un pezzo. Come mai, Matteo? Dopo parlare anche Marco, chiaramente, certo. Qua vicino. Questa, quella che è nata come singolo dell'album è stato più un work in progress, perché è stata scelta in un primo momento per partecipare a un concorso famoso toscano, a cui non siamo stati selezionati, però avete tentato di farlo, avete provato. E quindi ed era totalmente diversa, quindi abbiamo provato, è stato uno stimolo per iniziare ad incidere qualche cosa. E, da questo però era una di quelle canzoni che ogni tanto nella testa non aveva quel che mi convinceva. Quindi dopo qualche anno è rimasto nel cassetto per un periodo. Ma la continuavamo a provare, non sentivo che qualcosa mi ronzava in testa, però, e in effetti era questa tromba un po' alla, anche parlando degli anni 70, anche del Davis, del Miles sì Davis. Ma anche possiamo dire, se sei d'accordo, sì, Miles Davis sì, però anche un po' i Blue Sweet and Tears, quelle cose un po' così. Davis jazzato, perché tu ami il jazz, c'è poco da fare. Sì. Serpeggia, però un pochettino di blues e di soul non fa mica male. Cioè, sempre. Male, quindi Blue Sweet and Tears, sì, lentamente qualcosina, forse di contorno. Si lasciano desiderare. Ora, quindi partiamo. Tu hai pensato questo pezzo, l'hai lasciato nel cassetto e poi finalmente hai deciso, no, lo tiriamo fuori. Lo tiriamo fuori e proviamo ad inciderci questa tromba, a metterci questo tempo Latin. E è venuto fuori questa canzone, a me sinceramente ricorda un po', se dovessi fare degli esempi, un po' Piero Ciampi. Non è mica male, è mica male. Che oltretutto era anche la partenza, perché lui è pisano, però livornese. Ah, pardon, livornese. Tu sei figlio di Fiorentino. Fiorentino, un po' così. Non posso avere, sono anche mezzo pisano, ma non lo posso dire. Non lo puoi dire. Pericoloso, pericoloso. Beh, quindi Piero Ciampi, sì. Piero Ciampi, che era anche la motivazione della registrazione, la prima registrazione, perché volevamo partecipare, essere selezionati a questo concorso, che da anni proviamo, però era uno stimolo. E quindi questo è un messaggio. Un messaggio in codice. A proposito di Piero Ciampi, io ricordo di aver intervistato alcuni anni fa, sì, Nada, che è una grossa esponente del discorso del premio Ciampi. Lei ci tiene moltissimo, chiaramente lei amava assolutamente Ciampi. Mm-hmm. E mi è venuto in mente anche Nada sta facendo un percorso molto diverso a tutti i è passato il tempo di Sanremo. Nada è totalmente diversa, fa un percorso molto interessante, molto più interessante, molto interessante. È molto difficile. Oltretutto ora sta facendo questo tour insieme a sempre dei musicisti, se non sbaglio anche loro, o pisani o livornesi, ma di indie rock. Certo. Beh, l'indie Zen Circus. Sì. Quindi stanno facendo questa cosa insieme, che sarei curioso anche di andarla a vedere, perché mi sa di molto interessante. Sì, ma il disco nuovo di Nada, non so se l'avete sentito, è un disco molto particolare. La Nada è cambiata da tanto tempo e continua sempre a cambiare, a evolversi, a trovare delle strade. E meno male, tanti artisti Lo so, perché ha avuto coraggio di farlo. Ha avuto coraggio. E tu hai coraggio di farlo, perché questo disco tuo, ribadiamo, non è un disco semplice, è un disco d'autore, tra virgolette, al 100%, con tanti riferimenti, cui abbiamo detto prima, perché è giusto che sia così. È il primo disco, cioè tanti bagagli che aveva pronto a disposizione, hai tirato fuori e l'hai sviluppato come dovevi svilupparli. Credo che sia un passo necessario, se vediamo, sono sia un amante della letteratura, ma anche dell'arte figurativa, quindi qualunque pittore si vada a vedere da giovane, uno comunque troverà dei riferimenti molto precisi a chi si è messo lì, l'ha studiato, ha provato il colore. Quindi io ho visto questo disco un po' nella stessa maniera, po' anche come una sorta, anche in maniera più iniziatica, nel senso che bisognava rompere il silenzio in qualche modo. Quindi abbiamo messo le carte in tavola, ho messo le carte in tavola con questi, con i collaboratori. Poi li citiamo tutti. E abbiamo provato. Credo sia normale il fatto di avere dei riferimenti, soprattutto in un primo momento dove uno deve sviluppare, a mio avviso, un linguaggio molto personale. Certo. E questo piano finale che hai messo nel singolo, questo piano, questi secondi finali di piano, una specie di jam session finale, questa chiusura del cerchio. Mm-hmm. L'idea come è venuta fuori? Ma è venuta, come dicevi te, da una jam session. Da una jam session. Perché le prove assomigliano molto. Le prove spesso assomigliano a una jam session. C'era poco di, a parte io che arrivavo alla stanza con la melodia e la parte di chitarra, poi il resto a livello di arrangiamenti. C'era un lavoro, ma che ricordava più il vecchio stile, nel senso ci mettiamo nella sala prova e proviamo. E andate. Senza una preproduzione o altro, era stata una cosa abbastanza naturale. Benissimo, sono le 22:18, come da nostra tradizione suoniamo. Suoniamo. Che cosa? Cominciamo questa cavalcata fino alle 24, Matteo. Vorrei iniziare con quella che è il brano d'apertura del disco, che si intitola Una volta da piccolo. Perfetto. Divertivo a cercar di suonare il silenzio, trance soffiate dal respiro caldo, le note stonate al vento. E un giorno di pioggia trovai qualcosa che raccolse tutto il mio grande entusiasmo. Nascosto in soffitta da polvere e specchi, un piccolo uomo suonava. Tra flauti e gran cassa, sonaglio in tasca, le dita sui tasti agitava. Ed io di soppiatto a spiare, la banda invisibile intanto iniziava a marciare. Si è accorto della mia presenza, il nano si mise a danzare, contento che avesse attirato un curioso, e il suo bel cappello mi tese. Ed io senza indugio accettai l'invito a lasciar giù di sotto le lacrime guai. Dal cilindro suono e lasciandoli a germogliare nel silenzio delle cose di ogni giorno, così da far nascere un fiore, così senza usare le parole che poi inventerai se ti lascerai consigliar da chi sei. Suono e lasciarlo lì a germogliare nel silenzio delle cose di ogni giorno, così da far nascere un fiore, così senza usare le parole che poi inventerai se ti lascerai consigliar da chi sai. Passarono gli anni, le foglie, le mogli, l'idea che io avevi della vita. Colletto stirato e sguardo frustrato al pensiero che fosse finita, per chi non riuscì più a trovare la voglia di salir la scala e tornare a sognare. Blu Radio Veneto, era come non l'hai mai sentito. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Leggendo le recensioni positive, molto positive quelle di Marco e di Matteo, perdono, ma anche di Marco, anche di Marco, visto che ha partecipato al disco, c'è un recensore che ha scritto una cosa molto bella, adesso te la dico. Sì, c'è Matteo ama Tom Waits, l'abbiamo già ripetuto, però anche ama, e questo sono d'accordo con lui, Buster Poindexter. Questo è vero, è vero, perché ci sono le atmosfere di quei bar fumosi in serate fumose e di notte molto tarda. Certo. È così, Matteo? Sì, nel mio immaginario, comunque in tanti pezzi di questo brano, c'è questa atmosfera un po' noir, notturna, un po' noir, un po' jazzata, con il fumo che cresce, sì, si alza. A volte anche un po' grottesca. A volte è proprio grottesca, perché sì. Perché esatto. Nel senso... troppo molto spesso, come anche Poindexter e altri, vengano non catalogati ma visti come bohemian o sì, maledetti. Esatto. Maledetti. Un po' una via di mezzo, non è che c'è lo stereotipo, cioè, attratto, dai, però c'è qualcosa anche del fatto di riderci un po' più su, sì, come esatto. Facciamo le Toscane. Ma qualcuno ha detto che le tue canzoni non sono mai a lieto fine perché ti sei riferito a François Truffaut. È vero oppure no? No, diciamo un critico l'ha detto. Io non sono d'accordo, però un critico ha sparato. Allora, ha detto: tu ti sei riferito, hai sentito quella frase di François Truffaut, e allora hai detto che la frase, questa qua, adesso te la dico subito. Sì, un film a lieto fine è un film che non finisce, perché i film devono raccontare la vita di tutti i giorni, siamo d'accordo, e la vita non è mai a lieto fine, ma è proprio così, Matteo. Non credo, non credo. Allora, qualcuno ha sparato, ha detto, lui si è riferito alla frase di François Truffaut e ha fatto... Uno potrebbe dire, facendo riferimento alle notizie dei telegiornali o dei giornali in se stesso, che le belle notizie non vendono. Ecco, sono d'accordo con te, le tragiche notizie sì. Le tragiche notizie purtroppo sì, ma forse così. Anche perché uno ci gioca sopra. In questo caso no, non credo. È più grottesco il discorso. È più grottesco, il fatto di andare a cercare quelle piccolezze che rendono anche l'uomo, a volte anche grande e grosso, una parte del tutto, quindi certo. un punto nell'universo, quindi può succedergli qualunque cosa, però possono contare le grandi fatiche che portano, ma può contare anche spostare un briciolo di polvere, certo, può succedere certo. qualcosa anche... se ti casca una bottiglia. Ora a me, io dannoso, cioè, danni ne faccio molti, però nel DNA. Però ecco, mi piaceva il fatto di andare a cercare le piccole cose su cui scrivere, magari anche le storie che tu che racconta, diciamo, non sono proprio personaggi. Sì, tengo a precisare che molto spesso non ci sono, no, non ci sono, è un mix di autobiografismo ma legato anche alla creazione artistica, che poi è quella di ricamare sopra anche una piccola cosa che mi è successa oggi, però non necessariamente i personaggi che descrivo sono... Quindi le storie li inventi con delle cose che vedi, che assapori in quel momento. Mi è venuto in mente una cosa che ho visto, che ho intravisto, non so, sì. Può essere creato così un pezzo? Sì, mi sento da questo punto di vista più... Sei un pittore allora? Una cosa forse più letterale. Più letterale. Senso, lo scrittore di racconti, mi piacciono capito. Molto i racconti. E questa, la creazione, il fatto di dare un seguito, un inizio, un seguito, una fine, mi interessa. O comunque in questo lavoro mi ha molto stimolato. E quel blues che ha fatto adesso lui, cioè avete fatto un blues? Questa versione del pezzo in acustica, avete fatto un blues? Un blues forse mascherato, ma era un blues? Sì, son sempre un po' mascherato. Un po' mascherato. Ma è bello mascherare il blues, però dopo viene sempre fuori anche se si maschera. Sì. Gusto, quello c'è. Il gusto c'è perché fa parte un po' del nostro background. Del nostro background a cui, insomma, veniamo senza di... Sì, ma non c'è niente di... Ma anzi, è positivo. Abbiamo citato i Captain Beefheart, abbiamo citato Zappa, ma Zappa non c'è... Sì, Zappa può... spostarci anche nei tuoi pezzi, perché Zappa è un inventivo, non ha... Sì, Zappa è più un fatto, uno è, più, è per me stimolante ascoltare la musica di Zappa, o anche il personaggio, sì, irriverente. È un sì. punto di rottura. È un punto di rottura, esatto. Capitan Beefheart, tutti hanno detto che se non c'era Capitan Beefheart non c'era Zappa, io non so come sia il discorso. L'uovo e la gallina. Esatto, l'uovo e la gallina. A questo punto, da dicembre scorso, nessuno può sentire entrambi. Purtroppo sì. Purtroppo sì, Capitan Beefheart se n'è andato da poco, mentre Zappa se n'è andato da molto tempo, però rimane sempre Zappa, viene sempre fuori, c'è sempre qualche disco nel cassetto da tirare, discografia immensa. Ecco, quello che posso dire, se dovessi rubare qualcosa a Zappa, sinceramente questa immensa mole di produttività, sì. Cioè praticamente il fatto come una cosa normale, cioè produrre e buttare fuori, perché comunque... Esatto. Te nel cassetto ho visto nessuno viene. No, e anche Matteo, se mi permetti, anche il grottesco. Zappa era qualche volta dava degli strali non da poco. Lì aveva un'ironia veramente pungente. Sicuramente anche la società americana. Sì, la società era molto più. Sì, beh, lui non aveva paura di dire quello che doveva dire. Era molto convinto. Zappa, che se su una musica non ci fosse stato un testo, nessuno l'avrebbe ascoltata. È vero, hai ragione. Quindi è per quello che faceva anche dei testi particolari, diciamo in quel modo. Diciamo. Invece adesso si fanno gli abiti di carne fresca. Sì, questo è vero. Il mondo gira. Esatto, il mondo gira, ma gira anche qua dentro, a Rockwave. Sentiamo la tua musica. Adesso sentiamo un pezzo da disco. Che traccia hai scelto, ti ricordi? 10, benissimo. Ok, sentiamola sul balcone, traccia numero 10, la sentiamo assieme. Ok. Osservo i miei alluci sull'orlo del balcone. Non so se buttarmi, ma di certo è un'occasione. Sbattuto la porta e sei andata. Mi hai detto sono mesi che non riesco a sfiorarti. Mi avvicino ed invece ti scansi. Osservo i miei alluci sull'orlo del balcone. Sono un uomo coraggioso ma non prendo una decisione. Quando vidi baciarti con un altro nel buio segreto di un bagno, io ti dissi ti amo e ora ecco il guadagno. Non mi butto, non lo so quanto varrà. Osservo i miei alluci sull'orlo del balcone. Metto più impegno ma non trovo una soluzione. Dal basso chi passa mi fissa e mi invita a fare la mia mossa. Il vicino che scende di corsa si preoccupa solo della macchina in sosta. Mi butto, non ne so quanto varrà. La scongiuro, non faccia sciocchezze, ci sono un sacco di buone ragioni per continuare a vivere. Osservo i miei alluci sull'orlo del balcone. Per quanto non ci riesca, devo farmene una ragione. I tuoi figli si lamentano spesso osservo i miei alluci sull'orlo del balcone. Io resto qua sul nudo stretto al mio cornicione. Non so quanto varrà, mi muzzo, non mi buzzo, mi buzzo, non mi buzzo, mi buzzo, non mi buzzo, non lo so quanto varrà. Fingendo di salvarmi, voi che correte numerosi con le vostre telecamere digitali a 300 milioni di pixel, voi che trasformate la mia disgrazia in evento mediatico da prima serata, voi che siete pronti a attaccarmi su qualche dannato profilo web, quanto vale un mio sorriso mentre mi salto in braccio, quanto vale la mia fortissima sorriso mentre mi salterò in braccio. Radio Vigiova sbarca su Blu Radio Veneto. Eccoci, eccoci, Radio Vigiova prontissimi a partire per una nuova puntata. Ci ciao. Siete? Ciao Enrico, ciao. Certo che ci siamo. Ciao siamo Miriam, qui. Ciao Don Andrea. Ciao Enrico, ciao, ciao Miriam. Ciao Don Andrea. Ciao Miriam. Ciao Enrico, ciao Don Andrea. Ciao, ciao. Bene, okay, saluti, saluti dobbiamo farli. I tre simpatici conduttori dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Vi aspettiamo con Radio Vigiova domenica alle 23. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito un pezzo molto particolare, ma prima di fare una descrizione salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera siete qua anche per lui, e grazie anche alla Elena della Lunatic, che è stata fondamentale anche lei. Parliamo di questo pezzo sul balcone. Dal punto di vista, parlavo prima con Marco, la voce te la sei rovinata oppure no, cantando un pezzo simile? No, quasi. No, no, però l'hai sforzata alla grande. Abbiamo sfruttato anche un po' la tecnologia. Abbiamo sfruttato anche la tecnologia per distorgere un po' la voce, per renderla un po' più così sporca in qualche modo. E questo tema, questo uomo che vuole buttarsi dal balcone perché c'è una donna di mezzo, l'ha lasciato. Questi 10 momenti, questo è un momento sul balcone. Musicalmente un pezzo molto bello, molto interessante. Ha un testo, come parlavamo a microfono spento, molto forte, molto drammatico, possiamo dire anche questo. Però musicalmente cerca di stemperare questo testo. È così? Sì, come se cercasse di creare questa tensione del mi butto o non mi butto, quindi il fatto dell'indecisione, che poi c'è sempre, cosa faccio? È una decisione importante, è un po', se uno non fosse sul balcone potrebbe farsi la stessa domanda anche in mezzo a una via, cioè faccio quello che mi interessa fare, non lo faccio, è un po' anche la metafora anche del dire faccio il musicista, mi butto, non mi butto, potrebbe essere anche che mi sfracello al suolo, sì. Ma potrebbe essere che potrebbe fare anche... Se vado fino in fondo... Non so, c'è, se uno lo vuol leggere così, se no c'è un epilogo di un po' così tragico che potrebbe essere un fatto di cronaca, ma giusto così come esempio. Potrebbe essere anche sul balcone davanti al palcoscenico, un palcoscenico ideale. Potrebbe anche essere un palcoscenico... Un palcoscenico ideale, certo, perché anche lì c'è sempre C'è il rischio, ti butti o no su tutto questo palcoscenico? Vuoi fare l'attore? I vecchi artisti degli anni 60 si buttavano, li prendevano, qualcuno non l'hanno nemmeno preso. L'ha lasciato volutamente. Però c'è anche... C'è sicuramente il balcone come un palcoscenico, anche che come se uno parla dal punto di vista di un attore ha un mondo interiore che vuole esprimere, però a volte tende anche a chiuderlo, non è né mai totalmente uno né mai totalmente l'altro, o comunque sarebbe bello in certi momenti esserlo per interpretare quello che si vuole, però rappresenta un po' l'insicurezza. Certo. Ok, 22:30. Dimmi, l'indecisione, non c'è indecisione quando suoniamo. Fra qualche secondo cominciamo a suonare un altro pezzo. Cosa hai scelto? Cosa avete scelto? Ora, prima Bloody Mary Blues, mentre perché parlavi dei locali fumosi. Esattamente, Bloody Mary Blues, un pezzo molto bello dal disco, è molto complicato. Adesso vediamo come lo fate dal disco. Va bene. Ok. Ciao, che piacere ritrovarti ancora qui sotto questo cielo nero, neanche fossimo in un film. Ciao, che piacere ritrovarti ancora qui, stesso cocktail, stesso bar, ma i tuoi occhi sono tristi. Cambiare strada non ti serve poi a molto, se poi quando vi è mattina non puoi scrollarti di dosso le tue paure che la notte ha mucchiato come un corvo sulla spalla che la fronte ti ha beccato. Quanto è costato scoprir che la solitudine non era solo un pozzo dove buttar le mie bambole tra spose puttane, casino d'oltre frontiera, ti seguivo come un matto, rincorrevo una chimera. Ritrovarti ancora qui sotto questo cielo nero, neanche fossimo in un film. Ciao, che piacere ritrovarti ancora qui, stesso cocktail, stesso bar, ma i tuoi occhi sono tristi e non ti credere che ora sia geloso di una che ti molla mentre me ne stavo al fresco senza degnarti di una visita di cortesia quando sapevi bene che era stata colpa tua. Tu so che invece hai sposato quel soggetto con la villa in pieno centro, l'elicottero sul tetto, lui che a far shopping non ti manda mai da sola ma col suo bell'autista che la notte ti consola. E cosa credi se vuoi anche ora sgolamarti? Dopo 5 Bloody Mary lo fu anche senza rimpianti. Passa un attimo e senza neanche pensare mi afferrasti per la mano e giù dritti a far l'amore. Quell'ultima sera dove ti stringevo forte e la luna risplendeva, quando un attimo siamo stati felici senza pensare a domani, a quei giorni. Ho fradici di blu, fradici di blu, yeah, fradici di blu. Yeah. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, sì, non è successo niente, dal vivo succedono queste, questi spostamenti, è tutto in diretta ragazzi, è tutto assolutamente in diretta stasera con Matteo Malcuori e Marco Renieri per presentare il disco di Matteo, Il Gioco Analogo. Salutiamo anche Roberto Baldi che sta curando le telecamere, ringraziamo a Roberto e la Silvia, la Nicoletta e la Patrizia sono tre ascoltatrici rock, quindi seguono sempre il programma del mercoledì. Questo è un pezzo molto bello, io ho detto dal punto di vista, cioè da disco era molto difficile, avete fatto molto bene secondo me. E questo blues insanguinato sul balcone, c'è un bancone di un bar stasera, prima c'è il balcone idealmente, ma proprio c'è un bancone di un bar. Sì, diciamo siamo un po' affezionados dei bar di dei zona bar. Che ci conoscano comunque bar di Firenze praticamente di veniamo dalla provincia dalla provincia. Valdelsa e abbiamo fatto e tuttora io faccio e lui no, però in gioventù abbiamo fatto i barristi nei pub, nelle discoteche e abbiamo visti molto frequentato la gioventù alcolica è stata dall'altra parte esattamente. Quindi noi eravamo gli istigatori a questa cosa e tanti ci ricordano per questo. E quindi il pezzo è nato anche per quello, forse con queste questi ricordi forse si è sviluppato. Sì, è solo un input chiaramente. Sì, sì, nell'immaginario c'è sempre una donna in mezzo, però c'è poco da fare. Quelle sono sì, le storie si sviluppano sempre, però una ragazza c'è sempre, una sì, donna c'è se prendiamo in esame, se volessimo analizzare anche nella vita di tutti i giorni quanto in fondo sono le motivazioni per cui scrivere, c'è sempre di mezzo una donna, certo e tante altre cose, ma si collegano, sì. Viene sempre fuori in ogni caso qualcuno che fa pasticcio. Sì, esatto. Sentiamo i musicisti oltre a Marco che è qui presente che hanno partecipato al tuo disco. Allora, ci sono diversi parecchi musicisti in ogni pezzo, vero? In ogni brano sono cambiati, c'è chi ha fatto delle collaborazioni, è stato molto piacevole anche scoprire delle persone con cui non avevamo in realtà mai collaborato, quindi abbiamo chiamati chiedendo per piacere se venivano a registrare. E in Bloody Mary Blues chi c'era? In Bloody Mary Blues è la formazione originale. Cioè dimmi. Cioè abbiamo Marco Renieri al basso. Perfetto. Fabio Salomoni al piano, Lorenzo Dei alla batteria, Matteo Malcuori voce e chitarra. Perfetto. Vi presentate anche in tour così dal vivo? Sì, anche dal vivo normalmente siamo la formazione quella. È un quartetto quando gli altri essendo insomma come dicevamo, non è molto facile portare la carovana nelle città italiane. E il quartetto è perfetto perché ci permette di fare praticamente tutto quello che è nel disco. E anche altro. Anche altro perché facciamo anche degli omaggi a cantautori italiani. Certo. È tutto un calderone da cui tiriamo fuori le cose anche che ci piace, perché poi l'importante in questa situazione nostra di adesso è anche divertirsi. Quello è importante, è divertirsi. Però c'è il divertimento, il pubblico lo sente, lo apprezza, secondo me. Quindi c'è predisposizione. Sì, è importante perché sente comunque... Sembra che è genuino quello che facciamo. E poi anche... Questa cosa per me è nata anche un po' dall'esigenza, non so, correggimi, però dopo anni di cover... Di cosa? Visto che ci siamo, che cover erano in scaletta, Matteo? No, noi, e Marco? Io e Marco andavamo da Battisti ai Blues Brothers, Dubby Brothers con Lontre Rani, i classiconi. E gli evergreen che non muoiono mai, che ci fanno sempre sentire con piacere. Che alla fine è vero stanno che comunque nella palestra. Che piacciono comunque sia ai giovani che a chi come noi ha già ascoltato un po' di musica. Certo. E ci sono sempre delle canzoni che non muoiono mai, però ci ha dato anche la possibilità sia di farci un po' le ossa e di conoscere anche alcuni locali in cui poi successivamente anche con questo disco ci siamo esibiti. Quindi siete riusciti a trovare un locale, dei locali per esibirvi col disco praticamente. Sì, le difficoltà che ci sono e continuano ad esserci. Sì, il disco è uscito un mese fa, quindi ci stiamo muovendo adesso. Abbiamo fatto un po' d'inverno, però il progetto ancora era in fase, work in progress, quindi però abbiamo trovato Crediamo che sia importante esibirci non solo nei pub, ma anche nei posti dove ci siano molto spesso le persone non sono, non tutte, però andiamo nei posti dove non interessa poi alla fine ascoltare delle cose d'autore, eccetera. Quindi preferiamo i posti un po' più, come dire, non riservati, ma più intimi. Sì, ecco. Ho capito. Cioè, dimmi. Il pub a volte ci risulta un po' stretto perché l'esigenza nostra è quella di che farci ascoltare. Sì, esatto. Quindi, che la gente ascolti quello che portate avanti. Non vogliamo essere un intrattenimento. Esatto, l'intrattenimento si può fare in qualsiasi altra occasione. Però ci stiamo comunque adattando, ma stiamo creando anche una versione più acustica dove poter muoversi. Perché anche questo il fatto del piccolo locale a volte necessita anche una formazione ristretta, una formazione che faccia casino, nel senso che volte portando le percussioni si rischia di... Ma l'acusticità è importante se anche dal punto di vista delle spese, cioè c'è meno dispendio di energia, anche di strumenti, l'acusticità è più ridotta, quindi anche e può essere anche una bella cosa da fare, anche se è più difficile però in ogni caso, vero? Sì, perché dei brani sicuramente rendono meno in quelle, non meno, hanno una veste diversa, però sul balcone eccetera. Sul balcone ha un sacco di riferimenti proprio anche abbastanza pomposi, cioè pompati più che pomposi. Sì. Quindi senza delle percussioni così a volte risulta un po' più, però ci proviamo lo stesso. Benissimo. 22:50 in questo momento, fra qualche secondo. Sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia è, Michele, ti ricordi? Numero 9, lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ok. Che aria pesante da sopportare. In questa cella non riesco più a stare. I muri bianchi trasudano spesso le ombre che nascono dentro me stesso. Questo buco non mi lascia uscire. Il reverendo mi ha confessato, questa è la preghiera per il mio peccato. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà, oh mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Sofia era bella da mozzare il fiato, io un forestiero da poco arrivato. Con mani di fata tessiva la seta. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà, mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Saprebbe indicarmi un luogo tranquillo. Nel mio fienile la posso ospitare, ma domani notte dovrà ripartire. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà, oh mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. cortile. La paglia bruciava di fuoco inatteso, colpa del demonio e di un patto in sospeso. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Abbi pietà, mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Cantava se là il mio ronzino scese sul sentiero nel far del mattino. Là sul crocicchio avevo giurato che col primo amore l'avrei ripagato. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà, oh mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Stringeva nel pugno un foglio sbiadito. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, grazie al tuo debito è stato saldato, prova col tuo oro a lavarti dal peccato. Oh Lord, oh Lord, abbi pietà, oh mio Signore, e fai di me il tuo umile servitore. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, Matteo e Marco, un blues torrido del Delta, riveduto e corretto, costruito nelle, vicino a Firenze. Sull'Arno. Sull'Arno, sull'Arno. Sull'Arno. Ora tutti pensano, perché comunque abbiamo fra tutti sempre un immaginario collettivo. Il blues è vero, è nato in quelle zone, però, si può fare i fiumi ci sono tutti in mondo. Appunto. È bello, però, proprio blues, proprio un secco blues, qua non c'è poco da fare. Poi, io sto pensando, mentre sento i pezzi, ma le corde vocali tue resistono a una cosa, sì, a una... Cioè, sono molto messe in una certa maniera, cioè nel senso che le provochi. le tiri, sì, le usi, le sfrutti. Devo dire che questo modo di cantare, nonostante vabbè, abbia preso lezioni di canto, cioè, però questa cosa del growling, sì, del growling, blues, non so, me la sono sempre sentita addosso. Quindi è una cosa tua. Molto spesso tacciato anche di come una sorta di vizio, perché mi viene da ammettere, però è una vibrazione che mi piace. A volte devo dire che le metto un po' alla prova, però sì, io ho questa paura. Tu li metti troppa alla prova. Arrivare in fondo a un concerto appunto, quello è il motivo. Vai. Ora ci proviamo. Ho smesso, perché tutti pensano, ho smesso anche di fumare. E questo è molto positivo. Certo, ma ormai da anni, però la voce è rimasta. Lui no, lui no. Michele no, Così, beh, no, ognuno fa la propria scelta. Parliamo un momento dei suoni, perché mentre il microfono era spento, c'erano dei suoni particolari con delle catene, mi dicevi, su una base metallica. Una cosa, sì, in tutto il disco ci sono dei momenti da ricordare. Questa è stata, non la chiamerei un'invenzione, una trovata, perché comunque, come parleremo dopo nei dischi, ci sono dei riferimenti. Certo, certo. Ma abbiamo messo una lamiera su un piedistallo, e è una cosa che facciamo anche dal vivo: ci portiamo la lamiera con le catene e via. Il tastierista che si diverte, invece di avere un cembalo, l'effetto a livello ritmico è il solito, però il suono, l'effetto creato è questo della catena, quindi di quest'uomo che si porta un po' la palla, come nei cartoni animati, esatto, i fratelli di Luke. La catena a piedi, praticamente. Esatto. Sì. E quindi il blues va a pennello su questo. Certo. Va bene. Sono le 23 fra qualche secondo, e alle 23 fra qualche secondo abbiamo questo giochetto da chiedere: i tre dischi da portare su un'isola deserta. Avevi detto anche 5, però. Vabbè, se vuoi facciamo anche 5, però va bene lo stesso. È una cosa, una regola ferrea: non si può copiare. Ok, uno per uno, se fa uno. No, fatene tre a testa. Okay, vai. Inizia Marco, parti lì. Noi l'abbiamo parlato fino adesso, quindi se ora uno vuole avere dei riferimenti precisi, direi non senza Rain Dogs di Tom Waits. Quindi Tom Waits, io ci preferisco Blue Valentine, però accetto Rain Dogs, secondo molti critici e moltissima gente è un disco importantissimo, che ha aperto tante strade, certo. Non soltanto per Tom Waits dal punto di vista economico, però all'inizio è stato molto dura. Sì, molto dura, molto dura. Poi metterei Throat Mask Replica, ecco, un altro perché serve per sgranocchiare un po' il cervello. Altro disco che io ho in vinile, sai, doppio album, ti ricordi? Sì, un doppio album. È stato riproposto purtroppo per la morte del Captain Beefheart recentemente, anche una versione con i pezzi diversi, con pezzi in più. Ma perché è stato scoperto così tardi Captain Beefheart? Volutamente così tardi? È stato lui a mettersi un po' in disparte, però cosa dici? Che ha fatto due, è tre sempre dischi. Stato per gran parte della carriera è stato osannato dalla critica, sì, ma non dal pubblico. Osannato giustamente dalla critica, ma dal pubblico quasi. E poi c'è stata un'inversione di marcia dove lui è stato più accettato dal pubblico, però i pezzi, effettivamente a me quella parte discografica che ho ascoltato non mi ha interessato molto, cioè si era molto calmato, sì, per poi riprendere calmato negli ultimi. Sì, esattamente. Ma non so, aveva molto anche questa passione per l'arte plastica, certo, per la scultura, quindi c'è dentro Una visione della musica che è molto interessante. Tutti pensano che sia, è un po' caotica, perché sì, il primo ascolto di Throat Mask Replica è caos. Io l'ho letto, mi ricordo molto tempo fa, io ho una certa età, ragazzi, quindi mi ricordo una recensione di Riccardo Bertoncelli, il più critico dei critici, che parlava in modo fantastico del Captain Beefheart, meglio ancora di Zappa secondo lui in alcuni momenti. E già dire meglio ancora di Zappa non è proprio. Diciamo però, che il disco in questione è stato prodotto da Frank. Esatto, è sempre l'etichetta di Frank, praticamente. Mm-hmm. Loro, sì, facevano delle cose molto particolari. Beh, sì. Precisamente. E terza scelta, devo dire che c'è un disco che più che altro è un compositore che però se devo decidere un disco, prendo un'opera in particolare, che è l'opera da tre soldi di Brecht. Ah, ecco, io l'ho letto, che tu ami particolarmente questo. Mi piace in generale Kurt Weill. Quello là, abbiamo capito. E mi piace questo fatto del teatro, mi piace il fatto che parla di gente comune e mi piace questa... questa cosa, questo modo di suonare così da vaudeville o sì, comunque da orchestra, mi piace l'ambientazione tedesca. E quindi aggiungerei un altro disco per concludere il discorso delle catene, che è Alb Mensch degli Einsturzend Neubauten. Che bella pronuncia che c'hai, eh? No, sei esercitato. Che bella pronuncia che c'hai. Io non pronuncio, perché mi allontano assolutamente. Dove mi è piaciuto questo fatto di cercare nei suoni di tutti i giorni, o comunque nei materiali non scelti per produrre suoni, quindi costruire degli strumenti e usarli nel rock. Sì, posso dire che quel gruppo, che adesso non voglio citare, hai citato benissimo te, a qualche momento anche, non so, di rumorista, cioè preme sull'acceleratore. Il rock sì, però è un rock che è molto ampio, molto va oltre a certi dettami del rock vero e proprio. Potremmo citare tantissimi altri autori, fra cui... I Faust, perché non li citi? I Faust... E poi, o se no... I Throbbing Gristle. Un po' più semplici, più facili, Tangerine Dream, dai. I Tangerine Dream, sì. Che all'inizio non erano mica tanto semplici, tanto facili. No, ho ascoltato l'accompagnamento che hanno fatto di quel video su Dante Alighieri, sull'Inferno di Dante, è molto... Cioè, siamo dei gruppi, anche gli Osana, si chiama un altro, il Popol V, un altro gruppo interessante, i cosiddetti cosmici tedeschi, una volta si chiamavano così. Beh, sono molto tedeschi, affascinato dalla scena tedesca, sia vecchia come Kurt Weill eccetera, sia anche sento nella Germania qualcosa anche dal punto di vista pittorico, c'è un insieme, c'è questo immaginario. Ultimamente mi sono messo a rivedere Alexanderplatz di Fassbinder, certo. E lì si ritrova un po' l'opera da tre soldi, si ritrova tutte queste tematiche che è un po'... Mi piace. Ora, dovessi dirti il perché, ci sto lavorando. Ritornando in Popol Vuh, io ricordo Osiana Mantra, che è un disco bellissimo suo, anche dalla copertina, questo misticismo tedesco, era così. Perché c'è questa cosa, come dire, un po' dura, un po' diverso, un po' fuori dallo swing, anche se il jazz fa parte comunque dei miei ascolti, non quotidiani. Quindi, ma... la Germania vista... Kurt Weill praticamente, l'opera del sì, la zona, la parte di fine 800, inizio 900, sia tedesca che di vaudeville, eccetera. Mi piace, sono andato a vedere Ute Lempert e altre, che non è un repertorio facile da incontrare, no, anche nella programmazione dei teatri. Quindi devo dire che è una cosa che mi piace ascoltare. Bene, tocca a te, Marco. Allora, sicuramente il primo è il disco Jacopo Astorius, il disco omonimo. Tu sei un bassista, è chiaro che sei il più grande bassista mai esistito. Mi ha fatto riscoprire il basso e innamorare. Certo. Sicuramente poi Anime Salve. E come mai l'ultimo di Andrea hai scelto? Proprio l'ultimo? Perché raccoglie tutto, anche quello che c'è stato prima, perché sennò avrei dovuto citare tutti i dischi suoi, anche però, Fossati, allora ami particolarmente Fossati. Sì. Però ecco, diciamo, in Anime Salve credo che abbia raggiunto, diciamo, l'apice, a parte perché poi non ha potuto purtroppo produrre altro. Esattamente. Però è un disco che a livello musicale, a livello di testi, di contenuti, è un capolavoro. Un capolavoro, certo. Sì, proprio non ci sia un'altra parola per definire quello. E poi un altro disco. Ne hai due, perché Matteo è arrivato a quattro. Ok. Quindi. Allora, un altro disco sicuramente è Mingus. L'avrei detto io, meno male l'ha detto lui. Beh. Perché, a parte perché, diciamo, mi ha fatto innamorare del contrabbasso, certo. Però è anche, mi ha fatto scoprire un mondo diverso, sì, sia all'interno del jazz, ma anche poi all'interno della musica anche contemporanea, perché Mingus, secondo me, a parte un jazzista, è anche un grande compositore contemporaneo. E ti sparo una cosa, non c'entra niente, ma mi metto in mente. È il Mingus riveduto e corretto, omaggiato da Johnny Mitchell. Cosa ne pensi? Lo stavamo ascoltando in macchina, venivamo qua. Perché quello è anche quello, diciamo, una cosa. C'è Pastorius, c'è Mingus, c'è Johnny Mitchell, Pat Metheny. Sì, sì, i più grandi si sono concentrati in quel disco là. Sì, quello è il disco meraviglioso. E poi hai una quarta scelta. La quarta scelta io dico Joe's Garage. Di Frank Zappa. Vedi, abbiamo citato il maestro, e il maestro è venuto fuori. Perché c'è Zappa, però c'è anche il rock. Sì, beh, certo. Io lo trovo un disco rock. È stato il disco che mi ha fatto innamorare di Frank Zappa. Anche forse perché è anche più di facile ascolto rispetto a tante altre cose molto complicate. Che lui quindi, ha fatto. Diciamo, è stato anche quello che mi ha fatto scoprire questo compositore, perché anche lui. Poi insomma anche lì musicisti. Sì, ne ha fatti di colori nel senso positivo del termine, sì. Perché lui non ha dimensioni, lui andava quando aveva l'idea, via. In un'intervista disse, gli chiesero quanto avesse prodotto, lui rispose molto più di quanto tu potrai mai ascoltare. Ok, sono 23.08, se non siete stanchi, se avete ancora voce, sicuramente Matteo ce l'ha, suoniamo qualcosa dai. Ok. Visto che prima parlavi di Buenos Aires. Esatto, dopo ne parliamo ancora perché io voglio capire. Però suoniamo un pezzo molto vicino a questo. Occhio al volume di destra. Corre il megafono, sì. Praticamente. Sì. Bello, adesso lo vediamo. Sì. Bene. Sì, può andare. Si sente. Scende la sera, io resto qua. Volto dai dubbi nell'oscurità. Non tengo rancore neppure pietà. Sono figlio del caso della società. Una moneda che por favor, una moneda che por favor, una moneda che por favor, y una moneda che por favor. Io tengo il rispetto di anziani e signori che mi lasciano stare davanti ai portoni. Mi parlano di crisi o di rabbia e di stenti. Sono loro i padroni, sono loro scontenti. Una moneta che por favor, una moneta che por favor, una moneta che por favor, una moneta che por favor. Tutto tranquillo fino a un anno fa, il mutuo, le tasse nella fabbrica, ma da un giorno all'altro si salvi chi può, chiudere. I battenti arrangiati un po', una moneta che por favor, una moneta che por favor, una moneta che por favor, una moneta che por favor. Offro un mio rene, mio figlio è malato e si strazia di pene. Mi chiede papà, ma perché proprio a me? Il mondo è ingiusto, ma non so perché. Una moneta che per favor, una moneta che per favor, una moneta che per favor, una moneta che per favor. Cambio vagoni, ad ogni stazione passo a cattare tra borse persone, tra gente che guarda o sorride o mi insulta. Io racconto la vita, ma non getto la spugna. Una monedina, por favor. Una monedina, por favor. Una monedina, por favor. Por favor, scende la sera, io resto qua. Avvolto dai dubbi, dall'oscurità. Non tengo rancore, neppure pietà. Sono figlio del caso, della società. Sono figlio del caso, della società. Sono figlio del caso, della società. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Posso dirti, Matteo, in 5 anni, forse 6, la prima volta che vediamo un megafono usato qui in radio. Bello, molto bello, pezzo molto bello, fatto molto bene, con un certo pathos, con tanta difficoltà. Espressiva, hai sudato, abbiamo visto, ma che alle telecamere si vedrà. Certo, si è visto tutto, è in diretta, ragazzi, siamo in diretta. E certo. È lo spirito, la questo. Musica è questa. La musica è questa. La musica rock soprattutto. È la musica è rock. E soprattutto questo ed altro. Stasera stiamo ascoltando il tuo disco assieme a Marco, Matteo e Marco. Questa uscita del 3 giugno, quindi è un'uscita recentissima, però bello, si fa apprezzare. Adesso parliamo un momento di questo pezzo. Che cosa c'entra Buenos Aires o i viaggi esotici? Più che un viaggio esotico, i viaggi, possiamo i dire viaggi. Diciamo idealmente te. Idealmente questo pezzo nasce da una frase sentita nella metro di Buenos Aires. Tu sei stato a Buenos Aires? Sono stato per diciamo per, no, per problemi, no, per fattori di cuore, perché sì, beh, è bella cosa. La compagna viene di là, certo. E mi ha portato a conoscere questa città, nonché anche suocera e compagnia, suocera, eccetera. Beh, insomma, è da sottolineare, la famiglia. È la famiglia. La famiglia. E sono stato, non essendo mai andato in una città di queste proporzioni, perché comunque finché non abituato a Londra, che sono comunque delle metropoli, eccetera, lì l'atmosfera è diversa, perché c'è un misto di, come dicevi te, di esotico, ma mischiato all'europeo, perché molti sono... Ci sono tanti a parte italiani, ma è proprio strutturata su una cultura che viene dall'Europa, gran parte. E quindi c'è un crogiuolo di, a partire da, di elementi, dalla musica, eccetera. Però tornando a questa monedita, por favor, sono rimasto colpito perché un ragazzo, un bambino entrando nella metropolitana, chiedeva delle monete alle persone che stavano viaggiando, e la cantava proprio in questa maniera: una monedita, por favor. E mi è rimasta. E tornato a casa ci ho costruito, come negli altri casi, una sorta, come se fossi in prima persona un operaio che si trova a dover fare questa scelta, una scelta difficile. Non è necessariamente una canzone che può parlare della crisi o così, è proprio un fatto di uno si può ritrovare a fare qualcosa che non ci aveva pensato. Non ti ha influenzato il tango argentino, visto che sei stato in Argentina? Molto. Non l'ho messo fra i dischi, ma... Astor Piazzolla, sì, allora. Astor Piazzolla e anche i cantanti come Goyeneche o Carlos Gardel, anche il tango tradizionale. Sì. Il tango di Piazzolla, dove ha creato più che tango una musica d'ascolto, dove aveva le sonorità del tango, credo sia ultimamente una delle cose che ascolto di più, ma che se uno poi ascolta Kurt Weill eccetera, ci ritrova questa, queste marcette, questo, questo modo di fare molto legato anche alla strada, certo, legata, certo. Ma non alla strada come ci si immagina l'on the road americano, che terrei a precisarlo che a volte mi piace distaccarmi, perché comunque anche gli artisti che ho citato sono molto on the road, vengo da, anche a livello letterario, da molte letture degli anni 50 eccetera. Però mi piace anche, ho scoperto un underground, è un immaginario... La strada dei vicoli più che la strada... Sì, come diceva anche del De André, che ha sicuramente sonorità diverse dalle sonorità highway. Certo, certo, è chiaro. È così. E quindi sono rimasto colpito molto da questa città, perché nonostante la musica c'era molta letteratura. Grandi scrittori che apparentemente da noi... o comunque da me erano un po' messi in disparte perché non conoscevo, a parte Borges, ma certo. Lo stesso Cortázar, da cui viene la copertina dell'album, sì. Da una frase di Cortázar. E chi l'ha, a proposito della copertina dell'album, chi l'ha costruita la copertina? La mia compagna, che è una xilografia, la mia compagna è un incisore, sì. Si chiama Valeria Di Tommaso, e l'opera si intitola Rashuela, come il romanzo di Cortázar, tradotto in italiano Il gioco del mondo, e rappresenta quella che noi chiamiamo, in Toscana si chiama campana. Ah, ho capito. Però non so qua in Veneto, o gioco del mondo, o... Leone anche lo chiamavano. Non so, c'è non diversi. Non so, francamente non so. In ogni caso ho capito cosa là si chiama, sì. Rashuela, e dove si ricetta, si tira, e quest'opera è una xilografia. Ho capito. Bello, quindi l'idea è partita da questo. È partita da una frase di Cortázar, poi l'aspetto grafico. Sì, beh, l'aspetto grafico l'ha fatto la tua compagna, però chiaramente avete fatto insieme, l'idea è partita assieme. Sì, comunque i discorsi, poi è lei che mi ha comunque anche fatto conoscere determinati autori, eccetera. Certo. Quindi l'Argentina è stata importante. Insomma. Molto importante, non è, devo dire, anche legata alla musica, con la musica che ascoltavo, sì, non avrei mai pensato che la mia prima oltreoceano fosse viaggio oltreoceano fosse Buenos Aires, avrei potuto dire New York, Los Angeles. Però sei calato là praticamente. Sono calato, ma sono molto contento, è stato molto alternativo. È stata una cosa molto interessante. 23:20 in questo momento, abbiamo scelto per riposarci un poco la traccia numero 7, la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Bene, perfetto. Da quell'idea, quel che sicuro lo ti va meglio che a me. Tra la puzza di un whisky e di Chanel, ieri notte a minar calci alla luna, che si affacciava tra pozze d'acqua e di schi. E cani stanchi, troppo forte a urlare, calmarsi, ma potersi dissetare. We'll be right back. carrozza e chi sbotta. E i gendarmi appollaiati a spezzare un passo storto per poi poterti incastrare. E gira, gira la fune, si domina. L'onda del rock. Abbiamo sentito ancora il rock che si mischiava molto al blues. Il finale era blues, ma all'inizio era Jimi Hendrix. No, certo. Così possiamo dire. Lo suonavi te? La chitarra elettrica? No, no, no, no, il basso suonavi te. Chi la suonava l'elettrica? Lo ripetiamo. Il musicista. Io. Ah, suonavi te. Ma la chitarra elettrica, chitarrista. È lui, perfetto. Suonava la Hendrix praticamente. Stasera è in acustica, però. È in acustica, ma. Però va bene lo stesso. Parliamo un momento di questo pezzo molto interessante, molto. Rock, penso rock autenticamente rock. Anche sì, se credo sia il pezzo più rock del disco. Tanto il titolo che non abbiamo citato. Il titolo è Chanel. Perfetto. È una storia abbastanza così di una di una bisboccia. Una notte brava. Una notte brava. Sempre alcolica, sempre riferimento ai banconi. Esatto, locali, dei bar. Finita con un incontro un po' spiacevole, nel senso con ogni tanto quando beve poi trova i poliziotti, i carabinieri, insomma. C'è di mezzo una donna, siamo sempre lì, però il rock in questo c'era voglia di sfogarsi, un pezzo per anche dal vivo, è un pezzo molto live, è stato registrato anche più o meno in quella maniera, cioè dando questo imprinting, e ci voleva il brano per buttare fuori un po' di energie, però che fosse anche di un ascolto abbastanza, no facile, però che ricordasse. Sì, certe cose, sì. Cioè il, la... il modo di sfogarsi praticamente musicalmente. Visto che siamo verso le 11:30, ricordiamo delle cose molto importanti. Il tuo sito, prima. Il mio sito è www.matteomalcuori.it, dove potete ascoltare sia le anteprime dei brani che stasera sono passati e che avete ascoltato dal vivo, e trovare i miei contatti. Il disco gioco analogo come lo abbiamo? Io voglio il disco fisicamente, come lo posso avere? In questo momento fisicamente mi scrivi e io te lo spedisco. Perfetto, oppure ai tuoi concerti. Ai miei concerti, oppure adesso questa modernità a livello digitale su iTunes e tutti i migliori store digitali. Non c'è momentaneamente una distribuzione fisica per scelta, nel senso che sto aspettando di trovare un distributore adatto. Insomma, una proposta decente. Non indecente. Indecente tanti. È stato un motivo per cui devo dire che mi sono così lanciato dal balcone dell'autoproduzione. Perché è autoprodotto al 100%. Perché non avevo trovato sinceramente chi... qualunque cosa mi proponessero, mi proponevano, a parte l'ufficio stampa, lo potevo fare da me, nel senso che comunque non è che come una volta che la gente vuole già il prodotto finito e poi semmai sceglie di... O almeno io è quello che ho incontrato io in questo caso, non voglio fare delle leggi, perché delle regole, perché credo fino ad ora di non averle trovate delle regole fisse, quindi per mia esperienza ha portato a questo. E i concerti, se hai qualcosa da fare concerto adesso? Allora, il più importante, se si può chiamare concerto, è la partecipazione al Sonic Waft Contest, che è un concorso nazionale, avverrà a Anzio la settimana prossima, dove parteciperemo e siamo molto emozionati. Tutti e quattro o solo te? Tutti e quattro, la band è completa. Faremo due brani e poi il 19 siamo in Toscana, in un paese che si chiama Tavarna delle Val di Pesa, e faremo un nostro concerto nella rassegna Viva la Piazza. E poi stiamo concordando per i concerti futuri. Comunque nel sito è sempre aggiornato, trovate sempre, quindi si può trovare qualsiasi riferimento. Speriamo di venire un po' al nord, visto che prima mi dicevi che la scena qua su è Padova un po' meno, ma non so se vediamo un po' fuori verso Verona, Brescia, Bergamo, sono città molto attive, anche Padova chiaramente, bisogna tirare fuori le cose, però ci sono anche a Padova qualcosa di positivo, però c'è leggermente più difficoltà, però bisogna avere pazienza. Sì, certo, quella. Beh, qualche data a Padova, se riesci a tirarla fuori, Speriamo. Speriamo, dai. Sì. Speriamo, può capitare, chiaramente. Certo. Noi siamo disponibili. Ecco, perfetto, questo è importante. Però siete sempre disponibili a suonare adesso. Certo. Sono 23:30, abbiamo circa mezz'ora verso la fine e abbiamo ancora tempo per sentire la voce di Matteo e di Marco. Il brano che eseguiremo si intitola Alcol e Cartoni. Perfetto. Posti affollati davanti alle chiese o dietro ai mercati, luoghi che credo siano sempre abitati da rifiuti ammucchiati ed oggetti scartati. In fondo al tramonto è bello anche da qua giù. La mia villetta è un vano soggiorno, carrello da spesa con stracci attorno, in sala da pranzo che meglio può stare, sempre un nuovo cassonetto dove poter rovistare se è pesce di prima o carne stasera, chissà. Convinto che sarei tornato sovrano, padrone di beni, ricchezze e virtù, di sogni inconcreti, ma niente di più. E questa realtà pian pian mi tradiva, persi la mia stella e finì alla deriva. Ma quanto male mi fa stare qui al freddo a guardarvi passare con il cappotto firmato e come un gregge ben ben ammaestrato, io che la vita l'ho vista passare sui giornali che ho usato per potermi coprire tra le fogne, latrine, stazioni e binari, a finir giù nei vicoli, a rubare ai randaggi. Amici e parenti presi alla sprovvista e per niente scontenti, che li sbarazzassi di un corpo screziato, compianto dagli altri, da me sempre odiato, e fine neppure per scherzo cercato. Ma da qualche tempo non c'è più riguardo per quelli che son come me allo sbaraglio. Mi hanno attirato con alcol e cartoni, e con un fiammifero mi han fatto fuori. Mi hanno attirato con alcol e cartoni. Io che la vita l'ho vista passare sui miei occhi un istante, come oltre il giornale che di me e anche un attimo appena accennato di quel fuoco che un istante la mia vita ha scaldato. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, il clochard, e Paolo Conte insegna il kazung, lo strumento, sì, che tu hai suonato. Sì, il clochard, la vita del clochard, tra virgolette, è uno dei 10 quadri del disco. Come sì. mai questo pezzo? Il pezzo, diciamo che anche sempre sia in Buenos Aires, ma non importa, andare là, sì, da, beh, certo, le città sono piene di questi personaggi, però mi incuriosiva il fatto di capire qual era la molla che scattava nella mente, dove uno decideva, a parte il fatto economico, ma dove uno decideva di lasciare, di abbandonare, sì, e di vivere quella vita là. Di vivere la vita là. Mi sono immedesimato nella parte, e credo che una delle più belle soddisfazioni che ricordi del fatto di aver scritto questo pezzo è scendere dal palco e un personaggio mi chiede: che bella quella canzone, mi racconti della tua vita quando hai fatto il vagabondo, il clochard? E purtroppo dovetti dire, forse fossi stato più attore, avrei detto, avrei inventato qualche storia. In realtà gli dissi, guarda, è stata l'ho scritta, è una cosa che mi è piaciuta, ma non l'ho vissuta in prima persona. O forse sì, perché il fatto di scrivere a volte è vivere in prima persona. Certo. Cioè, se si vede da un punto di vista psicologico, mi sono immedesimato, mi sono immerso nella parte. Poi uno valuta quanto si sia, come l'attore, come l'actor studio, certo, insegna, fino a che punto ne è arrivato, però è stato... Sì, hai detto una cosa giusta, non sempre il clochard decide di essere il clochard dal punto di vista economico, ci sono dei clochard che economicamente stanno bene, però decidono di abbandonare le solite cose o il mondo per vederlo in un'altra maniera, sì, che quello è un motivo, è una scelta. E quindi era una cosa che sentivo la necessità di rappresentare, o comunque in maniera acustica, sì, cioè chiaro, in maniera acustica, sì. E, E questa è la motivazione di... Oltretutto anche qui comunque c'è un epilogo non troppo felice, sì. Ma... Allora ha ragione Truffaut. O meglio, il critico ha citato Truffaut. Sono, questi personaggi si prestano un po' a un finale abbastanza fragile. Sì, sì, chiaramente. Sono gli aspetti della vita, comunque non sono felici, quindi... Sì, i crociati, mica, cioè, giustamente, i crociati, ma questi personaggi. Sì, questi personaggi, perché poi Truffaut ha detto in generale. In generale, in generale, sì. In generale. Abbiamo 10 personaggi. In realtà ci divertiamo anche. Sì, no, certo, certo. No. Questo è positivo. Siamo sempre lì a. E abbiamo detto che vi divertite praticamente. E all'inizio di trasmissione aveva parlato del divertimento di fare il disco praticamente. C'è stata anche fatica, quello sì. Fatica, però c'è sì, stata... perché è stata fatta. Dimmi, prego, no, no, dai, continua. Ah, è stata fatta perché è stata fatta nei tempi, nel senso in cui non eravamo a lavorare, quindi le nottate, eccetera. Esatto, la passione che porta questa roba. Però il disco che abbiamo fatto, il pezzo che abbiamo fatto adesso è, diciamo, l'introduzione, come sentirete nel disco. È un momento epico della realizzazione, perché praticamente ci siamo trovati, inizia con una bottiglia che si rompe, esatto. E quindi tutti dicono come avranno fatto, chissà, ci siamo messi con un microfono e come due bambini a spaccare la bottiglia, solo che le prime non sono andate, tipo la bottiglia di vino non si è rotta. Ah, peccato. La bottiglia, no, di peccato, vino era, meglio così. No, nel senso, però era buona, era buona. Tutto impegnato lì che prova. Pa, e non, niente, no, da no, fare. E poi invece la seconda bottiglia di birra si è rotta e l'abbiamo fatta anche due o tre volte, tante volte quella non ci piacesse. Sì. Ho capito. Facciamo una cosa di questo genere, visto che abbiamo qualche minuto ancora. Sentiamo il pezzo com'è da disco, cosa dite? Certo. Sì. Che, ti ricordi la traccia però? La traccia è la numero 4. La traccia numero 4. Allora, lo sentiamo. Così... La roulette. No, no, la traccia numero 4. Così ci facciamo un'idea. Il pezzo è molto bello anche da disco, però noi l'abbiamo sentito live. Adesso facciamo un'idea com'era da disco praticamente. Bene. Affollati davanti alle chiese o dietro mercati, luoghi che credi siano sempre abitati da rifiuti ammucchiati ed oggetti scartati. In fondo al tramonto, bello anche da quaggiù. La mia villetta è un vano soggiorno, carrello da spesa con stracci attorno. In sala da pranzo, chi meglio può stare? Sempre un nuovo cassonetto dove poter rovestare. Sa pesce di prima o carne stasera che sta. Sarei tornato sovrano, padrone di beni, ricchezze e virtù, dei sogni concreti ma niente di più. E questa realtà pian pian mi tradiva, persi la mia stella e finì alla deriva. Sui giornali che ho usato per potermi coprire tra le fogne e latrine, stazioni e binari, a finire sulle vicole, a rubare arancati. sprovviste per niente scontenti, che li sbarazzassi di un corpo sgraziato, compianto dagli altri, da me sempre odiato, infine neppure per scherzo cercato. Da qualche tempo non c'è più riguardo per quelli che sono come me allo sbaraglio, mi hanno attirato con acqua e cartoni, con un fiammifero mi hanno fatto fuori, mi hanno attirato con acqua e cartoni. Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito quindi la versione da disco del pezzo che abbiamo sentito suonato qualche minuto fa. Abbiamo solo un quarto d'ora, quindi abbiamo deciso di far sentire, di fare ascoltare dal vivo un pezzo che non fa parte del disco, mi pare. No, di una compilation. No, concluderemo. Se No, allora cosa fai adesso dal vivo? Adesso un disco, sempre un pezzo da disco. Si intitola Il profumo. Perfetto, ok. Bye bye. Ho incontrato il tuo profumo sulla strada quel mattino, sapendo di chi fosse, ne rimasi assai colpito. Mi era così familiare come averlo già sentito. Eri voltata di spalle, appoggiata ad un bancone, mentre il mondo si accaniva attorno alla tua colazione. Mi sentivo come un'ape a ronzare attorno a un fiore. Ti voltasti all'improvviso come presa da un sussulto e mi accorsi con sorpresa che non eri un fior di campo, ma cresciuta sul cemento di un viale in pieno centro. Scoprire anche tu qual è la cosa che vale di più, solo quando lo vorrai. Se un giorno ad un angolo ti rapirà un profumo che sa di libertà. E il tuo cuore ingenuamente andrà. Erano solo poche ore che ti avevo riaccompagnato lungo quella tangenziale dove ti riavrei trovato, ed ancora per un'ora finalmente avrei amato. Tremavo come una foglia, vergognandomi di un vizio di mia moglie che a casa già chiedeva il divorzio, io che avevo accettato senza batter neanche ciglio. Scoprire anche tu qual è la cosa che vale di più, solo quando lo vorrai. Se un giorno ad un angolo rapira un profumo che sa di libertà, il tuo cuore ingenuamente andrà. Non mi vedesti o facesti finta di altro, mi dicesti dopo un gesto io di giorno non esisto, voglio finire gli studi e poi andarmene da questo posto. Rigirasti gli occhi al cielo come a maledire tutto, eri stata così chiara che mi avevi anche avvertito. Amami soltanto un'ora fino a che non hai finito. Il tuo profumo sulla strada quel mattino, mentre camminavo svelto per andare al lavoro, fu un secondo e niente più che tornai ad esser vivo. Scoprire anche tu qual è la cosa che vale di più, solo quando lo vorrai. Se un giorno ad un angolo ti rapirà un profumo che sa di libertà, e il tuo cuore ingenuamente andrà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Non è nel senso per almeno uno. No, no, adesso facciamo quello che vuoi. Adesso sono le 23:52. Parliamo un momento di questo pezzo che era molto bello musicalmente. È una ballad qui in versione acustica. È una ballad, è una ballad anche, di un amore di cui vergognarsi, si può dire tra virgolette. Tra virgolette, tra perché virgolette. Non bisogna mai vergognarsi. Esattamente, non bisogna mai vergognarsi. Sono le circostanze, esatto, circostanze un po' particolari. Abbiamo quasi finito, adesso abbiamo ancora 8 minuti circa. La canzone 5:43, la facciamo così se sei d'accordo. Sì. Io proporrei di fare, suonare e basta adesso. Okay. Ok, quello che volete voi concludiamo suonando. Prima però diciamo, penso che volete suonare voi. Facciamo, facciamo questo pezzo che ci siamo divertiti a registrare in questa compilation. Bellissimo. Poi comunque invitiamo a ascoltare gli altri brani. Sì, del disco. Adesso un'altra volta il titolo del disco, Matteo. Il gioco analogo. La tua è l'autoproduzione. L'autoproduzione. Dove si può trovare? Si può trovare sia sui migliori store digitali e che... mandato un mio messaggio, io ve lo ecco vi. Esattamente. E assolutamente nei tuoi concerti. Nei miei concerti, assolutamente. L'ultimo, il primo concerto dopo di questo sarà la partecipazione al Sonic Waft. Benissimo, che sarà quando? Che sarà il 30 di luglio ad Anzio. E poi c'è un altro concerto in Toscana. 19 agosto in Tavarnelle Val di Pesaro, in Piano Chianti, quindi potete fare la scampatella, venire a mangiare la bistecca fiorentina, bere del buon Chianti e ascoltare buona musica. Hai capito Michele? Sì, aspettiamo. È soddisfatto anche Michele. Benissimo. Sì, ok, abbiamo finito, 23:54, grazie a Matteo Malcuori, grazie a Marco Renieri, grazie a Maurizio, grazie a tutti a Radio Veneto, a Radio Veneto, sì. E a Michele che ha seguito, Michele Tosoni in regia. Grazie a voi, è stata una bella cavalcata di 2 ore, abbiamo presentato il tuo album e abbiamo sentito e abbiamo parlato della tua musica, quello importante, molto importante, è fondamentale. E concludiamo con cosa? Concludiamo con questo brano dove c'è sempre di mezzo una donna che si intitola Eva. Grazie e buonanotte a tutti. Ah, sì, sì, ah. Entrando nel medesimo locale, in una serata vuota e pigra da dimenticare, oltrepassando quella soglia, mi sforzo a un sorriso, la saluto senza voglia. Eva, Eva, oh Eva, lo so che sei qui per me, sospettita dal mio ghigno, e lo specchio del bancone immortalato con più sdegno, mi allungo il mio bicchierone, sul fondo galleggiava un cuoricino di limone. Eva, Eva, Eva, lo so che sei qui per me. Hai provato a calapiarmi in quel covo di furfanti, miscredenti nati stanchi, tutti ad affogar nel calderone come dentro un minestrone, a rimembrar la gioventù. Un altro sottino per dimenticare, non c'è cosa più triste che brindar senza un compare. Eva, oh Eva, dai Eva, lo so che segui per me. Quanto ti dona quel vestito di cotone caldo, finemente stropicciato? La mia Mary mi ha lasciato, sul comodino ha scritto, sei soltanto un gran fallito. Hai provato a calapiarmi in quel covo di furfanti, miscredenti e nati stanchi, tutti ad affogar nel calderone come dentro un minestrone, a rimembrar la gioventù. Un altro sottino per dimenticare, non c'è cosa più triste che brindarti senza compare. lasciò interdetto un buon cliente che subito le chiese perché me fra tanta gente, ed Eva allungò il suo anulare dicendo: sa quant'è che sogno di portarmelo all'altare. Lo so che sei qui, lo so che sei qui per me.